La moglie del pastore di Elisabeth von Arnim, Bollati Boringhieri Edizioni. Parte prima, capitolo 1. Al suo corpo affrancato dal dolore, parve quel pomeriggio d'aprile che tutte le violacciocche del mondo si fossero ammassate all'imbocco di Regent Street affinché le potesse camminare immersa nel loro profumo. Quella ragazza dalla figura esile e dagli abiti grigio topo, che scivolava in direzione sud provenendo da Harley Street, si trovava in uno stato di esaltazione, poiché si era appena fatta estrarre un dente. Dopo settimane di miserabile indifferenza, la sua gamma di reazioni tornava nuovamente a palpitare e ora riassaporava il gusto della vita, il suo aroma pungente e l'allegria che le comunicavano il trambusto della città e quei passanti frettolosi che la superavano. E la bellezza di tutto ciò. L'incredibile bellezza, pensò, combattendo il desiderio di indugiare nel bel mezzo del traffico per concedersi un appagante attimo di osservazione. La meraviglia del cielo oltre i tetti delle case, la delicatezza della foschia che aleggiava laggiù, passata la curva della strada, l'incanto conferito dalle luci che iniziavano a sfolgorare nelle vetrine. Senza dubbio la tavolozza dei colori di Londra era cosa sublime. Mentre sfumava nel tramonto, quel pomeriggio sembrava di madreperla, ricco di sfumature pallide e preziose, ornate da leggere ombre azzurrastre. Per quanto riguardava il profumo, poi si chiese se persino in paradiso esistesse fragranza più soave, e se sì, non doveva certo essere un odore altrettanto interessante. E in ogni caso, si disse, sollevando per un attimo il viso in un gesto d'apprezzamento, non altrettanto vivo. Di sicuro lei stessa non si era mai sentita così viva. Le pareva di essere pervasa da un'onda di elettricità e non si sarebbe affatto stupita se alcune scintille avessero iniziato a crepitare oltre la punta dei suoi guanti di sobria fattura. Non solo si era improvvisamente e incredibilmente sgravata da un dolore acuto, ma per la prima volta, nei 22 anni che costituivano la sua esistenza, si ritrovava sola. Già. Questo semplice fatto, senza considerare la vicenda del dente, sarebbe stato sufficiente a far vibrare di gioia una figlia deferente e volenterosa, nonché indefessa lavoratrice. Si sarebbe sentita percorrere da un fremito, anche se le si fosse presentata la gloriosa opportunità di un'intera giornata tutta per sé, semplicemente all'interno delle pareti grigie che circondavano il giardino a casa. Ma l'essere libera e senza alcun compito da svolgere, lontana dagli altri, cioè dai componenti della sua famiglia, impossibilitati per forza di cose a rivolgere la parola, la loro immagine resa già così scolorita e pallida dalla distanza. Eppure non li aveva lasciati più tardi di quella stessa mattina, erano trascorse solo 9 ore da quando suo padre, bello come un arcangelo, con la chioma argentata e le gambe inguainate nelle ghette, l'aveva salutata sulla soglia di casa con offesa e rassegnazione. E non ritornare, Ingeborg! La sua voce l'aveva raggiunta fin dentro la carrozza dove sedeva, tentando di tenere la testa ben ferma senza sobbalzare. Fino a che non ti sarai completamente ristabilita. Anche se fosse necessaria una settimana, persino 10 giorni. Fateli sistemare tutti. La causa di tale evento traeva origine dal crollo di Ingeborg, che ridotta a un groviglio di silenzio e agonizzante dolore, aveva destabilizzato l'ordinato ménage casalingo. La sua famiglia l'aveva sopportato per una settimana con la più inappuntabile amabilità e nemmeno uno sguardo di riprovazione. Poi era stata mandata dal dentista di Redchester, che pur avendo fornito fino a quel momento prestazioni di livello sufficiente, l'aveva torturata con otturazioni provvisorie, trasformando un malessere costante e omogeneo in convulsioni e spasmi. Infine, incapace di resistere a una tentazione che l'autocontrollo avrebbe fortemente mitigato, la famiglia incominciò a trovare inadeguati quei precetti del comportamento cristiano che esortavano a sopportare in silenzio, mentre lei si lasciava trascinare sempre più in basso, nei gorghi profondi della disperazione. Gli ordini del vescovo venivano impartiti invano. Ben 3 volte. Dovette recarsi alla stazione senza essere accompagnato e ritornare senza che vi fosse nessuno ad attenderlo. I bottoni, dato che non venivano rinforzati in tempo, saltavano via dalle ghette e di solito accadeva in posti remoti come i vagoni del treno. La corrispondenza rimaneva inevasa, anche quella più urgente. Appuntamenti di vitale importanza, senza nessuno che si premurasse di ricordarglieli, venivano disattesi. Infine divenne chiaro, quando sembrava che a lei non importasse più nulla, nemmeno di rispondere se interpellato, di muoversi se convocata, che quell'apatia e quella fuga strisciante verso un nascondiglio non li si poteva sopportare oltre. Contrariamente a tutte le tradizioni e ai principi vigenti in famiglia, essi lasciarono libera una giovane figlia ancora nubile. Con offesa e riluttanza la mandarono a Londra da una celebrità in fatto di cure dentali, dicendosi che dopo tutto non era come se stesse andando in quella città semplicemente per divertirsi. E chiedi a tua zia di scusarci se la cogliamo così alla sprovvista, le ingiunsero. La zia, una donna dal carattere serio e tenace, era impegnata in un ciclo di incontri politici al nord. All'opera, partita quella stessa mattina, lasciando una lettera e la sua casa a disposizione di Ingeborg per tutto il periodo in cui la sua presenza sarebbe stata necessaria agli interventi del dentista. Ma il dentista, essendo il migliore che il denaro potesse procurare, ebbe a malapena necessità della presenza di Ingeborg. Si avventò senza indugio e con precisione sul dente malato e lo estrasse. Non vi furono otturazioni, ritardi o dolore e nessuna zia. Mai vita fu riscattata in modo più sublime. Ingeborg si allontanò libera lungo Harley Street con 10 sterline in tasca. Per la rimanente parte di quella giornata e per un'ora o due, l'indomani prima di avviarsi verso la stazione di Paddington e di lì a casa, il mondo era a sua disposizione. Beh, nulla può impedirmi di andare ovunque ne abbia voglia questa sera, pensò fermandosi come folgorato dal pensiero dell'assoluta libertà di quella situazione. Potrei cenare in un locale davvero elegante, come credo capita a tutti quei personaggi dei libri che non mi ha consentito leggere, e poi andare a teatro. Nessuno me lo impedirebbe. Potrei persino andare a un caffè concerto se lo desiderassi, e ancora nessuno potrebbe vietarmelo. Immagini audaci che le suscitarono il riso. Non rideva da intere settimane, sfrecciavano dentro e fuori la sua mente vorticante. Si vide vestita nel suo abito grigio topo, in locali colmi di marmi e stucchi dorati, ove riduceva i camerieri al rispetto e alla sottomissione mostrando loro le sue 10 sterline. Intessé sinistre trame di possibili atti arditi, sorridendo alla sua immagine riflessa nelle vetrine, al pari di una teca ammantata di sobrietà e irreprensibilità che custodisse immagini infuocate. Avrebbe potuto noleggiare una macchina. Una semplice telefonata nel giro di 5 minuti sarebbe potuta correre via nel crepuscolo verso Richmond Park o Windsor. Non era mai stata a Richmond Park né a Windsor, non era mai stata da nessuna parte, ma era certa che là avrebbe visto i pipistrelli volare, le stelle, l'acqua, la lieve oscurità creata dagli alberi e sentito l'odore di terra bagnata. Avrebbe potuto ordinare all'autista di gironzolare un po' per quei luoghi lentamente, in modo tale da poter assorbire ogni cosa, per poi tornare in città e andare a cena in qualche bel posto, come il Ritz, pensò, di cui aveva letto qualche resoconto in fretta e furia tra un'apparizione e l'altra del vescovo sulle colonne più intriganti del Times, giusto per spassarsela un po'. Oppure avrebbe potuto andare prima a cena, sì, prima la cena, al Claridge, anzi no, non al Claridge, vi risiedeva un'altra zia, sorella di sua madre, ricca e potente, ed era sempre meglio evitare di incrociare zie che fossero ricche e potenti. La cena al Thackeray Hotel, forse. Lì abitavano i parenti del padre, signori di bell'aspetto che un tempo erano curati e prima ancora bambini rubiconti e ben educati. Aveva sentito dire che si trovava vicino al British Museum. Il nome e la collocazione suggerivano un'idea di sontuosità e nobiltà ancora più fastosa del Ritz. Sì, avrebbe cenato al Thackeray Hotel e tutto sarebbe stato splendido. In quel frangente, avvicinandosi a una vetrina dove era esposto cibo in gran quantità, si rese conto con meraviglia di sentirsi affamata per la prima volta da settimane, così affamata che il desiderio di pranzi o cene future scomparve. Bramava qualcosa da mangiare subito. Entrò nella bottega del panepiuma e sorbì un'immensa tazza di cioccolata, che ebbe l'effetto di dissolvere tutte le rutilanti visioni del Ritz e del Thackeray Hotel, E sentendo quanto quella bevanda fosse legittima e appropriata per la figlia di un vescovo senza chaperon, ne ordinò la porzione più grande che costava 4 pence. Erano le 6 quando, incredibilmente ristorata, emerse da quello strano posto dove anziani allampanati dagli occhi stanchi, chini su tavolini di marmo gelidi senza tovaglia, trangugiavano uova in camicia e si incamminò lungo Regent Street. Si sentiva stranamente determinata. Non intendeva più andare a Ritz. Anzi, l'idea di cenare in qualsivoglia ristorante, ora che la cioccolata la pesantiva internamente, quasi come un indumento invernale che le ricordava certi tipi di pelliccia, le dava il voltastomaco. Si sentiva ancora intraprendente, ma anche un po' intorpidita. Adesso desiderava stare all'aria aperta e concedersi un po' di moto. Il fascino del calore dello scintillio di un caffè concerto non esercitava più alcun richiamo su di lei. Quella bevanda densa sprigionava un gusto che sentiva essere inconciliabile con un certo genere di locali. Una proprietà pienamente appagante che proveniva dalla mancanza di qualsiasi adulterazione, dall'estrema purezza, una qualità che le ricordava d'essere la figlia di un vescovo. Allontanandosi pensosa dalla bottega del pane e piuma, si rammentò d'avere una madre invalida costretta su un divano. Un'unica sorella dalla bellezza commovente e una classe di ragazzi, un tempo indisciplinati ma ora rispettosi. In altre parole, aveva una posizione da mantenere. Si sentiva ancora felice, ma di una felicità bonaria, e probabilmente sarebbe ritornata alla casa della zia in Belford Square, in quello stato d'animo fervido, rinfrancato, ben disposta a una serata in compagnia di un libro per poi coricarsi presto. Se la sua attenzione non fosse stata richiamata da un cartellone esposto fuori da un luogo simile a un ufficio, con l'immagine di acque e monti e recante la scritta a lettere cubitali. Una settimana nell'incantevole Lucerna. 7 giorni per 7 guinee. Chi desideri aderire al primo viaggio, in partenza, è pregato di rivolgersi all'interno. La nonna materna di Ingeborg era una svedese, una creatura di estrema tenacia e abilità sugli sci. Era una donna giovane quando fu avvicinata di sorpresa da quel turista inglese dall'aria slavata, colui che risultò poi essere il nonno di Ingeborg, inebriato dalle generose letture e meditazioni, dal profumo di quelle immense foreste, nonché delle fragole di bosco con panna acida. Sino al giorno in cui, per ragioni inspiegabili, si era concessa in moglie a quello straniero smilzo, era vissuta in mezzo a elementi naturali di grande bellezza, distese d'acqua, montagne imponenti, venti impetuosi e una vasta solitudine. E Ingeborg, che non era mai stata al di fuori dell'Inghilterra e aveva trascorso anni e anni nel tranquillo e sentimentale ovest, vedendo l'immagine di quel grande lago sovrastato dalla volta celeste nella vetrina di Regent Street, sentì una rapida stretta al cuore. Erano le dita di sua nonna. Restò immobile a fissare quella fotografia, mentre le sovveniva, sebbene in modo incompleto, nonostante si sforzasse a tutti i costi di ricordare, la visione di qualcosa di bello, ineffabile e remoto, conosciuto un tempo, sì, un tempo lontano, ma che adesso continuava a sfuggirle di mente. Le urgenti incombenze della vita nell'ambiente episcopale, la corsa senza respiro verso i suoi doveri e la tensione provocata dallo sforzo lungo tutto l'arco della giornata, di assolverli e di mettersi alla pari, i bottoni del vescovo, i discorsi del vescovo, le partenze in treno del vescovo, l'ubiquità di lui quando era a casa, la sua corrispondenza che tutto fagocitava quando era fuori. È il mio braccio destro, soleva dire il padre in tono maestoso di encomio, e poi ricevimenti pomeridiani per il tè, ai quali la madre di Ingeborg non poteva partecipare per via del divano. Le feste all'aperto nella contea dove bisognava accompagnare Judith. I visitatori, la fretta, il frastuono. La vita a casa sembrava essere l'attività più rumorosa in assoluto. Avevano soppresso, coperto, soffocato e messo a tacere parti del suo carattere importantissime e sconosciute. Quel po' di nonna che si nascondeva in lei. Ora comunque quella donna forte ma impulsiva le insorse dentro in tutta la sua possanza. La nipote si trovava nell'esatta inclinazione d'animo che la predisponeva a riceverne l'influenza. Se ne stava lì, in piedi, gli occhi sgranati, smaniando e fremendo. Pertanto si accinse ad argomentare. Perché mai non avrebbe dovuto farlo? La figura del vescovo, come lei stessa aveva notato con stupore poche ore prima, se vista da quella distanza, sembrava dissolversi in un crescente pallore. A casa ormai era tutto sistemato. Avevano reclutato una segretaria avventizia, il cappellano era stato avvertito della sua assenza, forse persino Judith avrebbe dato un piccolo aiuto. E sua madre avrebbe potuto starsene in salvo sul divano. Non l'aspettavano di ritorno che tra una settimana e non prima che il suo dente avesse cessato di dolere. Se il dente fosse stato ancora ben saldo nel suo alveolo, sicuramente in quel momento le avrebbe provocato sofferenza. Se il dentista avesse deciso di procedere con l'otturazione, il male ne era certa non sarebbe stato debellato prima di 2 settimane. In ogni caso, che cosa le sarebbe rimasto delle 10 sterline elargite dal padre per i taxi, le mance e le altre piccole spese se distribuite nell'arco di 15 giorni? Inoltre gli aveva detto, e l'aveva fatto davvero, desideroso di non togliere nulla alla sua generosità in quella spiacevole situazione, che avrebbe potuto tenere il resto e spenderlo a suo piacimento, preferendo le parole con quella sua poderosa intonazione da sacre scritture che gli veniva naturale anche quando pontificava in abiti civili. Tuo padre è molto buono con te, aveva detto la madre, alla cui presenza prostrata era stato compiuto quel gesto munifico. La sua mente indisciplinata e scossa stava per formulare il pensiero: ma i vescovi devono essere buoni. Però riuscì a intercettarlo e a neutralizzarlo prima che arrivasse a metà strada. Così potrai acquistare un nuovo cappello primaverile. Sì, madre, aveva risposto Ingeborg dandosi un contegno. E magari anche una camicetta, disse sua madre pensosamente. Sì, madre. Mia cara, rammenta che ho bisogno di Ingeborg qui, disse il vescovo, messo a disagio dalla visione di una figlia indispensabile che ritardava per via di alcune camicette. Non te lo dimenticherai, vero Ingeborg? No, padre. E invece se lo stava dimenticando. Eccola, che stava di fronte a un manifesto qualunque, totalmente in memore. Laddove il Ritz e il Thackeray Hotel con le loro attrattive avevano fallito, veniva compiuto ora da quell'immagine di luoghi incontaminati. Dimenticò il vescovo, per meglio dire, se lo cavò dalla mente di proposito, visto che da tanto distante le sembrava un piccolo omuncolo, una cosuccia trascurabile, una figuretta nera con una macchia bianca alla sommità, si è paragonata a quella visione mozzafiato di terra e cielo. Dimenticò il lavoro che andava accumulandosi, dimenticò che ogni suo movimento poteva prima essere autorizzato. Fu come travolta da un vortice, da un impetuoso desiderio di libertà e avventura che la sospinse a entrare in un locale pieno di cartine, orari ferroviari e impiegati servizievoli incorniciati da sportelli in mogano. Balbettò senza fiato, indicando un duplicato del medesimo poster appeso all'interno. Quando parte il prossimo gruppo? Domani, signora, rispose il giovanotto destinatario della sua domanda. Si sentì pervadere da un senso di solennità e capì trattarsi dell'opera della provvidenza. Cessò di argomentare. Non tentò nemmeno di resistere. Desidero iscrivermi, annunciò. Fu così che le 10 sterline divennero 2 sterline e 13 pence, e lei si allontanò unicamente consapevole del fatto che il giorno successivo sarebbe partita. Capitolo 2. Il mattino seguente fu accolta a Charing Cross dalla guida turistica addetta al viaggio organizzato e infilata in un vagone di seconda classe assieme ad altri 9 escursionisti. Nella carrozza attigua ve ne erano altri ancora. Vi fu un attimo in cui riuscì a contarne 18 che si affollavano attorno alla guida, subissandola di domande. Oltre a una folla di affaccendati viaggiatori ordinari, coraggianti espressioni vacanziere, nonché diverse coppie in fuga. Tutti, come lei, sembravano desiderosi di mettersi in viaggio al più presto. Le coppie in fuga, a giudicare dall'espressione turbata dei loro volti, sembravano in preda a dubbi feroci o forse già al pentimento. Ma Ingeborg, benché stesse ingannando suo padre il vescovo, la cui figura sarebbe dovuta restare inviolata, sua madre, che essendo immobilizzata sul divano avrebbe dovuto fare appello alla parte migliore di lei e sua sorella. I culinamenti squisiti dovevano essere preservati da qualsiasi ombra che potesse offuscarne la bellezza. Non ne aveva affatto. Quel mattino, mentre preparava il bagaglio e lasciava la casa della zia, aveva provato paura. Il fatto che la servitù nutrisse l'incrollabile certezza che lei si stesse preparando per tornare a casa l'aveva spaventata. Si era vista costretta a raccontare delle piccole bugie, come per esempio indicare la stazione di Padding al tassista, ben sapendo che doveva invece recarsi a Charing Cross, ed era arrossita quando più tardi gli avevano comunicato il cambio di direzione attraverso il vetro. In ogni caso, ora si trovava lì, assieme a quella folla di gente animata dalle sue stesse intenzioni, la cui risoluta e contagiosa allegria, ad eccezione di quelle strane coppie dall'aspetto mogio, le regalava una sensazione di sicurezza e di assoluta normalità. Troppo divertente, si disse, osservando la banchina brulicante e ondeggiante di folla mentre il sangue le danzava in corpo. Troppo divertente. Spesso si era trovata alla stazione di Rochester per assistere il padre in partenza, ma che semplice congedo rappresentavano quelle occasioni se paragonate a questa frenesia. Anche là vi era del trambusto, naturalmente, dato che i treni non aspettavano nessuno e la gente non cede mai il passo a chi incrocia. Ma le partenze del vescovo in particolare, specie quando il motivo del viaggio era la celebrazione delle cresime, si svolgevano in un'atmosfera di gelido risentimento. Non lasciava trapelare grosse emozioni, penso ora ricordandolo, era come incapace di lasciarsi andare. D'altro canto, rifletté, sforzandosi di essere equanime, a differenza di un vero viaggio, nella somministrazione del sacramento cresimale, non vi era proprio nulla di illecito da carpire e gustare poi in segreto con malcelata e timorosa gioia. Si sentiva alla stregua di un bulbo nel momento supremo, quando il giovane virgulto verde riesce a fendere la crosta di terra di cui ha sostenuto il peso durante tutto l'inverno e all'improvviso sbuca alla luce e allo splendore del creato, il sollievo di quel momento, la gioia della liberazione. Gli escursionisti assegnati alla sua stessa carrozza cercavano a fatica di non pestarle i piedi nel raggiungere il finestrino per poter scambiare alcune frasi con i loro amici venuti a salutarli. Parlavano tutti all'unisono, riempendo il vagone di suoni e gesticolii. Gli astanti sulla banchina non riuscivano a sentire, ma annuivano e sorridevano con incoraggiamento, assicurandoli ad alta voce che sarebbe stata una buona traversata. Tutti erano stati accompagnati in stazione da qualcuno, con l'eccezione di Ingeborg e delle coppie in fuga. Lo si intuiva per via delle zone vuote sulla banchina. Seduta bene appoggiata all'indietro nel suo sedile, determinata a sistemarsi il più comodamente possibile e a tenere il passaggio libero dall'ingombro dei suoi piedi, era l'immagine della tipica figlia ben vestita, modesta e niente affatto appariscente di una famiglia per bene dell'Inghilterra di provincia, nonché del suo clero più facoltoso. Il suo morbido cappello grigio topo, secondo i criteri della moda là all'ovest, era ben calato sugli occhi e sulle orecchie, dove alcuni riccioli di colorazione scandinava sfuggivano ribelli. Il suo viso risultava totalmente nascosto alla vista per via dell'ombra della tesa. Si intravedevano solamente una bocca della linea generosa, i cui angoli esprimevano felicità, le narici di un naso selettivo e il bagliore di una pelle luminosa. Lo squadrato gentiluomo tedesco che sedeva di fronte a lei, non avendo nessun conoscente a Londra e pertanto trovandosi anch'egli, sebbene per una ragione diversa e onorevole, senza nessuno da salutare, ammazzava il tempo scrutandosi intorno. Completamente ignaro del fatto che potesse essere imbarazzante, egli continuava a fissarla. Era determinato, con la più grande fermezza, a vedere quanto il cappello celava, per scoprire se la si fosse potuta considerare bella o meno. Ingeborg, affascinata dallo scompiglio selvaggio che aveva luogo sulla banchina, non l'aveva notato, ma non appena il treno si mise in moto speditamente, ogni passeggero ebbe preso possesso del proprio sedile, dando inizio a quell'attività di furtiva osservazione reciproca che sarebbe presto sfociata nella fare conoscenza, ella si accorse che seduto di fronte, qualcosa di massiccio e saldo come una roccia, si stava concentrando su di lei. Sollevò in fretta il viso per vedere di che cosa si trattasse E per un attimo i suoi occhi gentili e intelligenti gli restituirono lo sguardo del dirimpettaio. Egli decise che solo per un soffio era sfuggita al dono della bellezza e con leggero rincrescimento si chiese che cosa avesse avuto in mente Dio. Se aumentasse di peso, sì, allora forse sì, pensò. Se aumentasse di peso, sì, decisamente. Ed essendo seduto esattamente di fronte a lei, continuò a osservarla, dato che non vi era nulla da guardare, se non una serie di tunnel. Gli altri escursionisti erano tutti accoppiati e pensavano che anche Ingeborg lo fosse, identificandola subito come la moglie del signore tedesco per via del fatto che lui non le rivolgeva la parola. C'erano due coppie di giovani donne, una terza formata da signore in età matura e una composta da due seri giovanotti che si erano messi a discutere di Balzac ancora prima di arrivare a New Cross. Nello scompartimento sembrava regnare una sorprendente atmosfera culturale, con l'eccezione delle due signore, che insistevano nel voler parlare di Schoolbred. Tutti si stavano intrattenendo con argomenti alquanto eruditi: Balzac, Blake, Bernard Shaw, Mrs. Florence Berkeley. Venivano palleggiati avanti e indietro per il vagone in modo leggero e disinvolto, come se si fosse davvero trattato di un incontro sportivo. In fondo, nell'angolo, Browning veniva paragonato a Tennyson e nel centro Dickens a Thackeray. Le due signore attempate, ancora concentrate su Shoolbred, formavano una sorta di diga tra questi flussi di erudizione e le silenziose acque stagnanti in cui Ingeborg e il viaggiatore tedesco sedevano immersi. Immediatamente, a causa di un'urbanità che non avrebbe mai consentito a che la più piccola porzione di capo di vestiario o effetto personale venisse urtata senza l'offerta di un scusatemi, subito riecheggiato da un di nulla in risposta, fu fatta reciproca conoscenza. Vennero offerti cioccolatini, si procedette alle presentazioni, i cappelli dei giovanotti non rimasero a lungo sulle loro teste e in sottofondo si poteva udire il mormorio di espressioni gratificate. Le due signore mature, appassionatamente immerse in Shoolbred, continuavano a mantenere Ingeborg e il suo dirimpettaio in una condizione di sterile isolamento. Ingeborg cercò di sbirciare oltre la donna che le sedeva accanto, sporgente come una montagna sormontata da enormi macigni, per vedere se le riusciva di scorgere i tre viaggiatori nascosti più giù, a valle. Parti visibili delle loro ginocchia rivelavano che erano simili a quelle di fronte a loro. Si trattava di ginocchia ordinate, un po' lise forse, ma diversamente da come erano logori tessuti a casa sua, nel palazzo di Rochester, dove gli splendori di pietra scolpita, di quercia scura e vetro antico venivano controbilanciati dall'impressione che si ricavava camminando su tappeti consunti, tappeti che incontravano il consenso della scabra regola cristiana, in quanto non ostentavano il loro incommensurabile valore in faccia ai locali sostenitori della separazione fra Stato e Chiesa. Quelle erano ginocchia vestite da stoffa a buon mercato, punto e basta. Chi erano queste ragazze, quei giovanotti? Le due corpulente signore, l'uomo con la grossa testa irta di capelli e lo sguardo fisso. Tutta gente che svolgeva delle attività, ne era certa. Non compiti occasionali come lei, ma lavori regolari che iniziavano e terminavano a orari prestabiliti, lavori remunerati. Quello era il motivo per cui riuscivano a vedere in modo aperto e dignitoso ciò che lei stava carpendo furtivamente, acquattata in un angolo. In un breve istante di stupore, si rese conto di preferire le modalità da sotterfugio. Sbigottita per quella scoperta, dato che non le riusciva in alcun modo di conciliarla con la figura del vescovo, della cattedrale, di casa sua, né con alcuno dei pensieri che era solita formulare sotto l'influsso di quelle presenze incombenti, tentò di seguire il reiterato consiglio del padre e di guardare dentro di sé, ma servì a ben poco. Vide, è vero, che stava compiendo un atto oltraggioso, ma anche che era felice, più felice di quanto non fosse mai stata a Rochester, subissata di gioie legittime ed episcopali. Vi era un'intensità riguardo a questa nuova gioia, la freschezza salmastra di qualcosa di allegro e di imperdonabile consumato in segreto. Contemplò per un attimo l'ipotesi della penitenza, ma decise subito che si trattava di una di quelle cose che vengono dopo. Prima era necessario compiere l'atto. Naturalmente bisognava farlo, altrimenti non vi sarebbe stato nulla di cui pentirsi. Si tirò a sedere ben dritta, il viso acceso per via di quei pensieri che la divertivano e la impaurivano allo stesso tempo, le labbra leggermente dischiuse, lo sguardo radioso, pronta per qualsiasi cosa la vita avesse deciso di offrirle. Sì, se ingrassasse un po', pensò il giovane tedesco, anche di poco, sarebbe sufficiente.